La situazione a Gaza è apocalittica, come penso si possa evincere dalle immagini che ci arrivano dalla striscia. I bombardamenti sono ripresi, l'ultima notizia di questa mattina è l'ingresso di 50 tanchi israeliani a Jenin. Ieri è stata iniziata un'offensiva ad amplissimo raggio che ormai è nel sud della striscia, Khan Yunis. Di fatto non esiste più nessuna zona sicura nella striscia di Gaza. La situazione della popolazione è, abbiamo usato l'aggettivo disperato tantissime volte nelle ultime settimane, ma in questo momento, cioè, quello che sta accadendo è proprio l'annichilimento di una popolazione civile. Annichilimento che avviene, appunto, lei diceva, ricordava gli attacchi al sud, dove molti palestinesi erano stati fatti sfollare, quindi di fatto una trappola. Di fatto in questo momento la popolazione civile di Gaza si trova in una situazione in cui è totalmente esposta agli attacchi, all'attacco di Israele, senza la possibilità di trovare rifugio o scampo da nessunissima parte. Il vostro appello era stato firmato da 600 persone, ora tornate appunto a mobilitarvi anche con un'assemblea giovedì prossimo. Cosa succederà? Stiamo indicendo questo momento assembleare pubblico in cui cercheremo, insomma, no, di trovare un coordinamento orizzontale tra le varie rappresentanze del nostro Ateneo, che sono il personale docente, il personale tecnico amministrativo e gli studenti. Io faccio parte di un gruppo di colleghi che lo scorso mese ha scritto un appello per il cessate il fuoco, che è circolato in università i primi di novembre e, come diceva giustamente lei precedentemente, è stato sottoscritto da circa 600 dipendenti tra personale tecnico, amministrativo e docenti in quella fase. Un appello è stato un appello che non ha mancato di destare critiche, anche severe, possiamo dire. Sostanzialmente si chiedeva all'Ateneo di prendere posizione, innanzitutto di farlo in supporto e in solidarietà della popolazione civile palestinese, in nome del rispetto del diritto internazionale e del diritto umanitario. I punti fondamentali del testo che avevamo scritto sono stati poi ripresi da una mozione presentata dal Consiglio studentesco, quindi dagli studenti, al Senato accademico nella seduta della fine di novembre scorso. Lì la mozione non è passata, ma è stata verbalizzata con un commento del rettore, che sostanzialmente reiterava una posizione già espressa alla stampa precedentemente, in cui si invocava la neutralità dell'università come spazio che, inglobando tutte le posizioni e tutti i punti di vista, non è deputato a farne proprio alcuno. E allo stesso tempo la governance si è anche impegnata a rispettare e preservare lo spazio di dibattito, comunque di confronto e di analisi critica sul tema del conflitto in primo luogo, evidentemente, ma anche necessariamente sul ruolo che l'università come istituzione e spazio di produzione sociale può giocare in un momento come questo. C'è un tema, una questione del posizionamento dell'Accademia che rimanda a questioni più ampie, che sono anche la concezione trasformativa o meno del sapere, questioni di politico-economia accademica, rapporto tra Atenei e industria bellica, militarizzazione del sapere, eccetera, che tra l'altro sono questioni invece molto centrali nelle posizioni, per esempio, del nostro corpo studentesco in realtà. Quindi noi ripartiamo da qui. Il 7 dicembre teniamo un'assemblea pubblica aperta a tutti di IPA, quindi il personale tecnico amministrativo, docenti, studenti, in cui sulla base dell'appello per il cessate il fuoco e della mozione studentesca discuteremo sulle prossime attività e su come muoverci per trasformare questa iniziativa in una qualche forma di laboratorio permanente. Ecco, in questo senso sapremo dirvi sicuramente di più dopo l'assemblea pubblica del 7. Durante l'assemblea ci sarà anche il collegamento con un'università palestinese. Sì, avremo un collegamento con l'università palestinese di Birzeit. È una delle più importanti università palestinesi, se non la più importante università palestinese, anche un'università che ha una lunga storia anche di relazioni internazionali, ed è sempre stata anche una delle università colpite più duramente dalle restrizioni alla libertà accademica imposte da Israele. Ultimamente è uscito anche un appello proprio della comunità accademica di Birzeit al mondo in generale, ma anche alle università, per costruire azioni di solidarietà. Un'ultima battuta, riprendendo appunto cose che ha detto prima, anche a proposito delle parole del rettore: ma ci può essere neutralità nella ricerca e in progetti universitari che comunque poi vengono sviluppati dall'industria bellica? Questo è proprio il tema del dibattito. Ci sono posizioni che invocano il tema, no, della neutralità accademica, ci sono posizioni che invece propendono per una necessità di decostruire, se vuole anche il tema dell'Accademia come torre d'avorio, e ritengono invece che l'università, come tra l'altro spazio politico in se stesso e spazio di produzione sociale, debba lavorare per incidere in senso trasformativo, chiaramente in positivo rispetto alla realtà. Il nostro Ateneo, per esempio, si richiama, no, da statuto a tutta una serie di valori che sono pacifisti e umanistici. Uno dei temi del dibattito è proprio quello della opportunità che una serie di progetti di ricerca invece siano legati alla ricerca e all'implementazione di tecnologie militari, insomma, quindi che non vengano messe al servizio, no, di una cultura di pace o della convivenza pacifica, ma al contrario di una cultura di guerra.